Vi è un evento descritto nella Bibbia, famoso e conosciuto perfino da chi non è addentrato nelle scritture. Un episodio, raccontato ai bambini e spesso citato dai predicatori del Vangelo, la battaglia, sostenuta da Davide contro il gigante Golia, un uomo alto oltre 3 metri. Un avvenimento storico, usato anche da educatori e psicologi per incoraggiare gli avviliti e i depressi a combattere i loro problemi psicologici, i quali sembrano tanti giganti imbattibili. Non è mia intenzione ricordare tutto l'episodio, proprio perché è più che conosciuto, ma mi soffermerò a considerare 4 momenti, come se di una pellicola cinematografica guardassimo solo 4 fotogrammi in particolare. Il primo fotogramma è LA casualità. Davide, mentre ancora bambino, si occupava delle pecore di suo padre. Era stato unto, cioè scelto, fra i suoi fratelli dal profeta Samuele come re al posto di Saul. Dopo la cerimonia, era ritornato a svolgere il proprio lavoro di pastore. Nulla presagiva che avrebbe combattuto contro un gigante, né lui certamente ne sentiva il bisogno. Ma ecco che un giorno Isai disse a Davide suo figlio: «Prendi per i tuoi fratelli un efa di questo grano arrostito e questi 10 pani e portali in fretta ai tuoi fratelli nell'accampamento». 1 Sam 17.17. Quindi arrivò il giorno che l'occupazione giornaliera abituale di Davide fu interrotta dall'ordine paterno, riguardante un diverso incarico, un evento di per sé affatto straordinario, ma che avrebbe cambiato radicalmente la vita di Davide e del popolo di Israele. Una precisazione non da poco, perché se calata nella nostra vita possiede un insegnamento importante. Tutti noi, meno io per primo, meno pianifichiamo la nostra vita, programmiamo e scandiamo il nostro vivere su tappe importanti, come i giorni festivi, le ferie, i matrimoni, appuntamenti decisivi, gli orari di lavoro, eccetera, eccetera. Tutto il resto sembra solo corollario o una semplice cornice. Ma Davide ha combattuto contro Golia quando nulla era programmato. Se poi questa verità viene calata nel contesto della vita religiosa, comprendiamo che il valore da noi attribuito alla nostra vita scandita tra la domenica e altri intrattenimenti speciali, il quadro è veramente misero. Vi sono grandi cose da fare per Dio, per la comunità e per noi, se solo siamo in grado di cogliere episodi fuori programma. Certo, io per primo faccio fatica a uscire fuori degli schemi abitudinari che obbligano a dover affrontare nuove problematiche, ma altrimenti i vari Golia non saranno mai abbattuti. Occorre prendere la decisione di rifiutare il rituale religioso per avventurarsi in nuove esperienze di fede che Dio ti pone e ti impone dinanzi. Se, come è scritto, i passi dell'uomo sono dall'Eterno, come può quindi l'uomo conoscere la propria via? PR 20.24. E ancora, il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. PR 16.9. Allora si può prendere risolutamente la decisione di combattere e vincere le varie circostanze fuori programma. Il secondo fotogramma da inquadrare nell'episodio di Davide con Golia è LA sua fede. Davide, nell'udire gli insulti del gigante in merito al Dio di Israele, si sente provocato e decide di combattere personalmente quello schermitore. Ma suo fratello maggiore, udendolo, gli dice tutto arrabbiato: «Perché sei sceso qui? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Sei sceso qui per vedere la battaglia». 1 Sam 17.28. L'atto intrepido di Davide è giudicato malamente come un atto di orgoglio, come del resto sono giudicati tutti quegli atteggiamenti non rientranti nei canoni della società. Infatti, a vedere e udire Golia, erano migliaia di guerrieri più o meno valorosi, ma nessuno di essi osava sfidarlo. Perciò è normale che la reazione di Davide così giovane sembrasse orgoglio o presunzione. Questo deve incoraggiare tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio e vogliono compiere cose non comuni. È normale che ricevano giudizi negativi da chi vive una vita cristiana trascinata e insignificante. Inoltre, la fede di Darden non era un entusiasmo temporaneo, ma il risultato di esperienze vittoriose in altri campi, al punto da indurlo a rispondere al re Saul, che lo frenava nel suo intento di voler combattere contro Golia. Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso veniva a portar via una pecora dal gregge. Io lo inseguivo, lo colpivo, la strappavo dalle sue fauci. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro, perché ha insultato le schiere del Dio vivente. 1 SM 17.3436. Questa è la fede che richiede il cristianesimo, e quella che vince i vari Golia. Infatti, Dio non desidera essere servito da fanatici, da esaltati religiosi, ma il suo volere è di essere servito da persone coscienti del rischio al quale vanno incontro, e che il loro agire per fede sia il risultato di un cammino giornaliero, nel quale hanno sperimentato la fedeltà delle promesse di Dio. E una fede o una fiducia accertata mediante improvvisata. Come Davide vinse Golia, perché aveva già l'esperienza, non una fede precedentemente realizzato varie liberazioni, così è possibile vincere grosse difficoltà. Se già si è sperimentata la vittoria in piccole cose, non potrai mai imparare l'autocontrollo nel campo sessuale se non sai controllarti nel cibo o nel riposarti adeguatamente. Se tu hai un Golia da vincere, concentrati su piccole vittorie in altri campi e scoprirai di essere molto più forte. Scoprirai una forza o sicurezza non tua intrinsecamente, ma derivante dall'aver imparato ad abbandonarti in Dio e a fidarti delle sue promesse. Il terzo fotogramma che possiamo tenere in considerazione nell'episodio di Davide con Golia è l'aiuto verso il prossimo. Quando il re Saul fu persuaso a permettere a Davide di scendere in battaglia, volle aiutarlo il più possibile, offrendogli la sua armatura e la sua spada. Ma dopo aver camminato un poco così bardato, Davide disse: «Io non posso camminare con questa armatura, perché non ci sono abituato». E così Davide se la tolse di dosso. 1 SM 17.39. Un particolare apparentemente insignificante, ma di un valore terapeutico e sociale infinito. Il re Saul voleva sinceramente aiutare il giovane Davide, perché non era per nulla esperto in merito al combattere un uomo, e, per di più, un pezzo d'uomo alto più di 3 metri. Per renderci conto della sua altezza, è sufficiente guardare il proprio soffitto di casa, che in genere non supera i 3 metri. Una conclusione non arbitraria, perché se è scritto che Golia era alto 6 cubiti e 1 palmo, 1 SM 17.4, e se un cubito misurava poco più di 0,5 metro, ne consegue che i 3 metri fossero più che abbondanti. Perciò, di fronte a questo pericolo, il re Saul pensò bene di aiutare il giovane Davide, ma ritenne di farlo a modo suo, secondo il suo punto di vista. Da un lato, il re aveva tutte le sue ragioni perché non conosceva altro metodo, ma il suo sincero desiderio di aiutare Davide non teneva conto se questo gesto fosse il più opportuno. Infatti Davide, non ritenendolo adatto a lui, lo rifiutò. Un episodio molto significativo. Quante volte, volendo aiutare il prossimo, vediamo di non essere all'altezza? Quante volte ci creiamo dei nemici con il nostro far del bene? Perché? Le ragioni sono varie, ma spesso perché più che dare una mano al prossimo per procurargli ciò che gli è veramente utile, guardiamo al nostro bene che facciamo, soddisfatti di aver fatto tutto il possibile, quando a volte è sufficiente altro. Inoltre, la reazione di Davide ci comunica che anche consigliare qualcuno deve essere calibrato rispetto alla portata di chi ci ascolta e non misurato secondo la nostra esperienza. Se posso portare il Vangelo a delle prostitute senza lasciarmi coinvolgere dall'atto sessuale, non posso far portare un simile peso a un giovane impreparato. Casomai, lui può usare un altro metodo, come fece Davide con Golia. Un giovane può mandare per posta un Vangelo, il quale potrebbe anche arrivare come una sassata, come fu per Golia. Per fare un altro esempio, una colpa che ho riconosciuto, causata dal mio zelo senza conoscenza, è stata quella di pretendere, a volte, dai miei fratelli, che comprendessero subito e camminassero in certe verità bibliche. Ponevo un peso su di loro che non riuscivano a portare e che rallentava il loro cammino spirituale, mentre è scritto che ognuno deve camminare secondo quello che ha capito. UN quarto fotogramma che teniamo in considerazione è l'amicizia con il figlio di Saul. Jonathan, nata dopo l'uccisione di Golia. L'amicizia. Qualcuno ha detto che nell'abbondante banchetto della vita non è un obbligo realizzare l'amicizia, ma se questa viene ben venga. E un'esperienza che vale la pena fare, ma nel caso di Davide siamo di fronte a qualcosa di più dell'amicizia, e per comprenderlo dobbiamo immedesimarsi nella scena di Davide che uccide Golia. Migliaia di soldati stavano osservando questo bel giovane rossiccio, dai bei occhi e di bello aspetto. 1 SM 16.12 che correva incontro al gigante, 1 SM 17.48. Tutti videro il sasso che si conficcava nella fronte, 1 SM 17.49, e quando Davide tagliò la testa a Golia. Tutti videro la calma di Davide, la sua fede, il suo coraggio e il suo zelo per il nome del Dio di Israele. Ma un solo giovane, forse all'incirca dell'età di Davide, rimase impressionato e piacevolmente colpito al punto come è scritto. L'anima di Jonathan rimase legata all'anima di Davide e Jonathan l'amò come l'anima sua. 1 SM 18.1. Un incontro di due anime che si rendono conto di essere una sola anima. Una voce che sente la sua voce. Non è esattamente un eco, perché un eco risponde con qualcosa che non gli appartiene, ripete solo, ma è un'anima, una voce, che scopre che esiste un'anima come la sua. Una stessa voce. Se mi è permesso, una simile esperienza è come quella nell'ambito della Trinità, dove il Padre rimane il Padre, dove il Figlio rimane il Figlio e la persona del Consolatore rimane il Consolatore. Però tutte e tre le persone hanno una stessa mente, uno stesso obiettivo, una stessa volontà. Se non si sperimenta è difficile da comprendere, ma in quel momento Jonathan si rese conto di trovarsi di fronte a se stesso. Senza essere lui stesso, si rese conto che quando guardava, Davide guardava se stesso. Questo ha prodotto l'uccisione del gigante Golia. Compiere imprese fuori dell'ordinario produce il risultato che qualcuno come te ti si avvicini con la sua anima senza veli, con il quale è possibile instaurare un rapporto che superi il legame di un'amicizia e diventi un legame divino nel quale non Kenk è un tu e io, ma un noi. Molto simile certamente al matrimonio, ma non condizionato dall'aspetto del maschio e femmina. Si potrebbe dire un legame asessuato, ma non è esatto. E un legame senza esercizio della sessualità, ma che contiene i due aspetti dell'uomo, cioè del maschio e della femmina. Difficile capirlo, ma com'è vero che un abisso chiama un altro abisso? SM 42.7. È vero che la fede, il coraggio, la purezza chiamano queste virtù. Da pochi anni si è scoperto, con strumenti sofisticati, che le balene emanano ultrasuoni che vengono percepiti e capiti solo da altre balene. Così chi si comporta come Davide emana ultrasuoni, o meglio divini ultrasuoni, che vengono percepiti solo da chi possiede la stessa anima. Del resto, Davide non è stato compreso dalle migliaia di soldati credenti che stavano solo a guardare. Una solitudine che rende ancora più preziosa l'amore di un Jonathan. Gennaio 2009. Ellero curiosità. Nel Canada, vicino al Parco Nazionale di Cape Breton, si trova un piccolo museo nel quale sono conservati gli effetti personali di Angus McCaskill, nativo del luogo. Questi era alto 2,36 metri e pesava 193 kg. Morì all'età di 38 anni nel 1863, dopo essersi esibito in tournée negli Stati Uniti e in altri paesi nel circo Barnum, insieme al famoso nano chiamato Tom Thumb, alto mezzo metro. Questo ballava sulla palma della mano del gigante.